comincio da qui e battezzo i miei danni con la fede in me, senza illudermi, ma con un principio da difendere, punto a pieno su noi. È bellissimo così, meglio tardi che mai. Ascoltami, posso essere io l'occasione che aspetti da una vita, ed io sarò di più, io sarò la certezza che chiedevi tu. È innegabile che da quando tu mi vuoi, punto tutto su noi, sorprendi. Essenziale l'hai tu, lo nascondi ai miei occhi, ma vale di più. Sei perfetto così, coi tuoi denti lucidi, punto a capo da qui. Ascoltami, lascia il tuo passato come lo porterai insieme a me, nel tuo presente. Prepotente.